Effetto Mondo. Portland Mayor Ted Wheeler rejected federal law enforcement in an irrational and tone-deaf letter. Mayor Wheeler might have thought he put political points on the board, but the very next day a protester was shot and killed on the streets of his city. Allora, Giulia, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno. Cosa ci hai fatto ascoltare? Una voce femminile, la voce di Kayleigh McEnany, è la portavoce della Casa Bianca. Tra l'altro è stata nominata in piena pandemia, perché è stata nominata il 7 di aprile di quest'anno e ha tenuto il suo primo press briefing, conferenza stampa, il 1 maggio. Io la trovo un personaggio veramente affascinante. A parte che ha una laurea in legge nella Harvard Law School, che è una delle più importanti facoltà di legge americane, è sposata con un giocatore di baseball, ha sempre dei vestiti molto, come posso dire, che esaltano il fatto che è anche una bellissima donna di 32 anni, ha sempre una croce al collo, credo, io le credo, perché non posso che credere a una convinzione così forte che viene fuori dal suo tono, dalla sua postura, da quello che dice. Cioè, lei veramente è in questo momento credo la persona che più difende le scelte di Trump, e qui se l'è presa ieri con Ted Wheeler. Lo abbiamo sentito proprio qui come voce di ieri, il sindaco di Portland. E lo accusa, insomma, di aver mandato una lettera che era come la lettera di un sordo, che non aveva cioè ascoltato l'offerta di Trump di mandare la Guardia Nazionale. Poi ha attaccato tutti nel prosieguo della conferenza stampa, compresi i suoi ex colleghi, perché Kayleigh, dopo la laurea in legge, ha anche lavorato come giornalista, prima alla CNN, poi a Fox News. Ha accusato Chris Cuomo, fratello naturalmente di Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, e l'altro anchorman della CNN, tra l'altro afroamericano, Don Lemon, di aver fatto una copertura degli eventi di Portland e di Kenosha assolutamente non corretta. Perché nel titolo della puntata di oggi ci hai proposto Sleepy Joe Biden? Si è svegliato? Perché? Sì, così l'ho sempre chiamato, no? Sapete, Trump, Donald, certo. Trump, Elizabeth Warren era Pocahontas, Mike Bloomberg era Mini Mike, e invece appunto Joe Biden, Sleepy Joe, perché in effetti lo abbiamo detto anche noi tante volte, Joe Biden non ha un gran carisma anche personale, poi insomma un uomo vicino agli 80 anni. Quindi sicuramente così, non particolarmente energetico, non sembra uno sportivo che sale sul ring a dare pugni a destra manca. E tra l'altro durante tutta la pandemia, per ragioni di sicurezza, Joe Biden ha potuto apparire molto poco, mentre Donald Trump nelle sue molte facoltà di presidente e commander in chief degli Stati Uniti invece ha potuto fare molta, diciamo, pre-campagna elettorale. Adesso Joe Biden, sì, molti lo sottolineano, ieri ha fatto un discorso un po' a sorpresa a Pittsburgh in Pennsylvania, perché anche lui farà campagna elettorale non dal suo basement, quindi non dalla sua cantina, dalla sua casa, eventualmente dal suo giardino, ma andrà a fare questi eventi con pochissimo pubblico. E se vuoi sentiamo le sue parole. He keeps telling you, if only he was president, it wouldn't happen. If he was president, he keeps telling us that he was president, you'd feel safe. Well, he is president, whether he knows it or not. Cosa ha detto? Dice, perché si è svegliato? Vi continuo a dire che se lui sarà presidente, se lui fosse presidente, if he were president, a un certo punto Biden dice, but he is president, lui è il presidente degli Stati Uniti. Questo è un argomento, secondo me, in cui si stanno un po' ingarbugliando i democratici, perché è molto autoreferenziale, cioè continuano a attaccare Trump dicendo che lui promuove law and order, promuove il benessere economico degli americani, quando invece in questo momento non ci sono law and order, non c'è la salute perché c'è la pandemia. È un po', non so, un po' un rincorrersi, un po' un gioco del gatto col topo. Però è vero che Donald Trump continua a dire, se Biden fosse presidente succederebbe questo, invece se io fossi presidente succederà quest'altro. E lui Biden dice, sei presidente, whether you know it or not. E qui c'è un tocco di ironia, anche se forse non te ne sei reso conto. Però è vero che questo tema law and order, insomma, ordine, legge, legalità, che sta cavalcando Trump, sicuramente è un tema che è un tema spinoso, credo, per Biden. Forse per questo si è svegliato, perché sì, rischia di perdere tutto il vantaggio che aveva su, forse, non lo so. Sì, questo. In questo senso è molto interessante la prima pagina del Wall Street Journal di oggi. Settimana scorsa abbiamo avuto ospite qui Eric Silvers, che è un corrispondente dall'Italia del Wall Street Journal, sì, e diceva che all'inizio, soprattutto nella parte degli editoriali, era chiaro che gli giornalisti o gli editorialisti del Wall Street Journal erano molto pro Trump, perché comunque ha fatto questi tagli delle tasse, la borsa andava benissimo. E oggi, in realtà da un po' di settimane, noto che non c'è più questo entusiasmo per cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno dal punto di vista economico, cioè l'ottimo andamento delle borse, i sussidi di disoccupazione che cominciano a calare. C'è un reportage oggi in prima pagina intitolato The Covid Storm, la tempesta del Covid, dove due giornalisti del Wall Street Journal d'inchiesta hanno dimostrato come le responsabilità che Donald Trump ha cercato di addossare ai governatori, guarda caso, degli stati democratici, hanno avuto delle conseguenze tremende sulla gestione, soprattutto delle forniture di ventilatori, di camici, eccetera. E quindi sottolineano come abbia giocato sporco, perché l'ha fatto quasi esclusivamente con gli stati, appunto i blue states, cioè gli stati democratici. Citavi il Wall Street Journal e mi segnali anche che si occupa di Zoom, questa, sì, società che ha avuto... Ormai la dobbiamo conoscere tutti, no? Forza. O Zoom o Teams ci è toccato, e naturalmente per il grande ricorso che abbiamo fatto loro non lo chiamano mai smart working, questo vorrei veramente sottolinearlo, è sempre remote work, cioè lavoro da remoto. Perché poi non che necessario... sia smart è tutta un'altra esatto, cosa. Sia smart o stupid non lo sappiamo. Sappiamo però che tante aziende, Twitter in testa, ha già detto che cambierà completamente il modello, l'organizzazione del lavoro, permetterà di, anzi vuole, si punta a utilizzare molto di più il telelavoro e il lavoro da remoto. Quindi Zoom ha presentato i dati e questo Outlook, cioè le prospettive, e vede un ottimo 2020. Come sempre, insomma, c'è chi, come sempre in ogni crisi, c'è chi soffre di meno, chi soffre di più e chi non soffre affatto. Allora, nella nostra consueta carrellata di paesi europei inclusi, dove ci vuoi portare adesso? Ci sono tante notizie, Giulia. Sì, mi hanno colpito oggi le prime pagine dei quotidiani tedeschi, perché quasi sì, sembrano un po', a parte la lingua naturalmente, un po' i nostri. Per esempio, Tagesspiele. Ist es nur ein Schnupfen? Però leggimelo in italiano, perché sennò così non c'è ce la facciamo. C'è la foto di due, sì, bambini con una coperta e, sì, un fazzoletto, e la domanda ironica naturalmente è, o meglio la domanda un po' inutile è, ma forse è solo un raffreddore? Il tema è quello, attualissimo anche in Italia, lo sappiamo, tu Alessio lo sai benissimo, avendo sentito fin dall'inizio il professor Crisanti che lo diceva e anche altri, del vaccino per l'influenza, o comunque di prendere qualsiasi precauzione, così che quando si mostrano questi sintomi di infezione all'apparato respiratorio si possa subito escludere che siano una serie di malattie che non sono il COVID. Sì. Quindi questo è Tagesspiegel, mentre la Süddeutsche Zeitung, che è un quotidiano del sud della Germania, titola a tutta pagina lezioni in tutta la Baviera solo nua mit maske, solo con le mascherine, e non si discute, non è come da noi. Ecco, forse questo è sì, importante, no. Perché questa è una notizia, perché fino ad oggi in Germania, non parlo per la Baviera ma in generale, la regola era sempre stata quella di mascherine all'ingresso, all'uscita o se i ragazzi si alzavano, ma seduti in aula durante le lezioni no mascherine. Invece adesso che succede? Adesso tutti gli studenti e gli insegnanti devono tenere naso e bocca coperti con la mascherina, con un foulard, con quello, questo come vogliono, ma devono essere coperti sia bocca, ecco, che naso. Ci ha spiegato tra l'altro anche un giornalista tedesco, ma anche Isabella Bufacchi, che in realtà in tema scuola le regioni hanno competenza, quindi certo, sì, può sì, darsi sì, che non vadano tutti, non vada proprio nella sì, stessa direzione. Però questo è un segnale di un cambiamento, di una svolta. Ne abbiamo parlato poco fa col sottosegretario Zampa alla salute, e effettivamente fa impressione, nel momento in cui noi decidiamo esattamente il contrario, la Germania, che fino ad ora ha gestito discretamente bene, per vari motivi la pandemia, ha preso questa decisione. E poi altra similitudine, versprochen, gebrochen, promesso e poi rotta la promessa. Il riferimento è a tutte le promesse appunto che si erano fatte agli infermieri, ai medici di tutta la Germania, perché arrivassero poi dei bonus, si era parlato anche di un bonus per le vacanze solo per loro. Non si è visto niente. Questo mi spiace. E quindi insomma alla fine la coperta è un po' corta per tutti, quindi forse siccome in Germania se la coperta è corta basta, i piedi restano fuori, non si trova una copertina extra. Abbiamo ancora pochissimi secondi, forse un altro titolo 2, vai. Ma guarda, la Francia, vabbè, anche in Francia il tema è la scuola, anche perché oggi sono tornati tutti a scuola. E la prima pagina che mi ha colpito molto è quella delle Parisienne, che c'è un bambino con un'aria super felice e dice: "Yuppi, finalmente il rientro a scuola". Il tema naturalmente è di come ai bambini più piccoli è mancata quell'interazione sociale che può essere solo con i loro coetanei, non e si può sostituire, infatti, che possano ritrovare. Grazie Giulia, appuntamento domani con Effetto Giorno, naturalmente la puntata di oggi con Paolo Colleoni in regia, Jacopo De Franchi in assistenza e redazione ed Alessio Maurizio, ciao, buona giornata.